Andrea Segre, regista del film L'Ordine delle Cose. Andrea, ben ritrovato. Ciao a tutti, ben trovati. Allora, per chi ci ascolta, raccontiamo brevemente L'Ordine delle Cose, Andrea. L'Ordine delle Cose è la storia di Corrado. Corrado è un funzionario del Ministero degli Interni che si occupa di fare quella cosa che adesso è molto discussa e di cui tutti sappiamo un qualcosina, che è l'accordo con la Libia per fermare i migranti. Ma grazie a Corrado intanto andiamo a vedere cosa significa, come si fa questo accordo, e soprattutto viviamo ciò che a lui poi succede, perché il film nasce da questa domanda, da questa curiosità, cioè chi sono le persone che poi si occupano di attivare questi accordi per fermare i migranti, e che cosa sentono, che cosa provano. E attraverso lui e le sue domande ci auguriamo che arrivino anche domande a noi. Andrea, la prima curiosità è il titolo. Come mai questa scelta? L'ordine delle cose è lo stato dei fatti rispetto a ciò che succede e la necessità di Corrado di rispettare quell'ordine come funzionario, ma anche la sua ricerca di entrare dentro, di mantenere un suo equilibrio attraverso la ricerca quasi un po' folle di un costante ordine, di una costante efficienza. Sì, e sì. Quest'ordine però contiene nel suo interno qualcosa che può farlo scricchiolare e che scoprirete andandolo a vedere. Senti Andrea, alla base di questo film c'è anche l'esperienza forte che tu fai e continui a fare nei confronti dei migranti a partire dai documentari. Ecco, volevo chiederti anche rispetto a chi ci ascolta, in base anche alla tua esperienza, cos'è che succede in Libia, che spesso, cioè il più delle volte, è un tassello che manca nell'informazione pubblica, questo dato. Certamente, per scrivere il film ovviamente abbiamo fatto una lunga ricerca che ci ha permesso di ricostruire il lavoro di Corrado, e con questa ricerca e di costruire poi un film che è di base una finzione, però è fortemente legata a quanto sta succedendo, e quindi l'intreccio tra finzione e realtà è molto tenso nel film. Quello che sta succedendo in Libia in queste ore e in questi giorni, che è stato preparato da diversi mesi, è essenzialmente che noi abbiamo proposto ai trafficanti un altro business, cioè questo è il meccanismo per fermare, per far sì che loro non facciano più partire i migranti. Abbiamo aperto delle trattative e abbiamo iniziato a dare soldi, armi e quant'altro a dei gruppi di miliziani che hanno il reale controllo della situazione in Libia. Tutto viene coperto da un accordo capestro con il governo abbastanza inutile di al-Sarraj, che nella sua realtà non controlla il territorio libico, ma è il governo imposto dalla comunità internazionale per avere un rapporto diretto ufficiale con il cosiddetto governo libico. Ma chi controlla il territorio, chi gestisce davvero il potere, la vita delle persone, sono le varie milizie che sono uscite frammentate dalla guerra civile e che non sono mai state ricomposte. Tra queste milizie c'è anche chi gestisce in maniera ambigua sia la guardia costiera che il traffico dei migranti, perché le due cose si intrecciano. E così quello che noi abbiamo fatto, abbiamo aperto contatti con le milizie, con i gestori del traffico, e abbiamo iniziato a pagarli affinché non facessero partire i migranti e se li tenessero nei loro centri di detenzione. E questo non lo dico solo io, che sono una fonte, diciamo, fino a un certo punto autorevole, ma lo dicono sia di stampa internazionale come Reuters, Associated Press, Mediapart in Francia. Ci sono articoli e reportage di una gravità incredibile che aprono degli scenari di inquietudine non soltanto umanitaria, ma parliamo proprio di mosse molto delicate da un punto di vista di anche strategie di interessi di Stato, perché mettersi a fare gli accordi con gruppi di miliziani libici per fermare i migranti significa poi essere ricattabili da questi gruppi, oltre al fatto che facciamo crescere il potere di persone tutt'altro che affidabili. Certo, anche perché una delle questioni centrali è il flusso di denaro, a chi va e con quali finalità poi alla fine. Sì, ma siamo davanti veramente, cioè l'opinione pubblica vuole fermare i migranti perché non è giusto dargli i soldi, e il governo cosa fa? Usa una quantità incredibile di soldi, milioni di euro che arrivano dalle casse dello Stato e dalle casse europee, per finanziare i trafficanti che diciamo di voler combattere, ma che non ne abbiamo arrestato neanche mezzo, e per finanziarli affinché non ci facciano vedere i migranti e si ritengano dentro a centri di detenzione disumani. Allora, anche se decidiamo in maniera cinica e per me disgustosa di non occuparci degli interessi, dei diritti delle persone detenute in questi luoghi di morte e violenza, chiediamoci se siamo d'accordo col fatto che il nostro governo dia soldi ai trafficanti. Cioè faccio questa domanda e vediamo che cosa mi rispondono gli italiani. Vogliamo davvero fare questo? Pur di non vedere i migranti, siamo pronti a dare i nostri soldi ai trafficanti, ai miliziani, a quelle persone dentro le quali poi dopo si formano ovviamente dei gruppi di potere fortemente pericolosi che sono gli stessi che poi ci minacciano da un punto di vista di rischi di attacchi di terrorismo. Ecco, altra questione centrale sono i centri di detenzione che tu bene illustri anche nel tuo film. Quali sono le condizioni appunto in cui vengono trattenute le persone? Le condizioni sono indescrivibili da un punto di vista fisico, materiale, devastanti da un punto di vista dei diritti, cioè sono luoghi, magazzini dove la gente viene stipata, dove non c'è ovviamente nessun tutela legale, proprio una parola che non fa parte, no, di quel non è contemplata, fiamme, sì. Dove vengono distribuiti ogni tanto del cibo che è fatto di pane secco con un po' di acqua spesso infetta e avanzi di pasta scotta senza nessun condimento, proprio come i cani, esattamente come i cani, e senza nessuna tutela di salute, di sanità, niente, e poi soprattutto sono numeri a disposizione di chi ci fa traffico sopra, nel senso che sono persone che poi vengono sfruttate lavorativamente, vendute, spostate da una parte all'altra, ci fanno quello che vogliono, d'altronde glielo chiediamo noi di farci quello che vogliono. Cioè, a me sinceramente i cristiani libici che fanno queste cose ovviamente fanno schifo, sul francesismo, sono esseri umani che disprezzo, ma disprezzo molto di più chi gli chiede di farlo e chi ci dà i soldi per farlo. Se il buon ministro in questo momento dice di essere assillato e preoccupato dalle condizioni, dei diritti di tutti gli esseri umani, avesse veramente questa preoccupazione, si sarebbe prima posto il problema di come chiudere questi luoghi di morte e come trovare un'alternativa per le persone lasciate in balia di queste violenze, di queste violazioni. Poi avrebbe eventualmente attivato la Guardia Costiera libica o altre cose. Invece l'operazione è stata semplicemente non devono arrivare, cioè è quello che diceva Maroni 7 anni fa, nient'altro di diverso. La cosa importante è che non arrivino. Se l'avesse fatto Maroni ci sarebbe tutta il centro-sinistra arrabbiata, siccome l'ha fatto Minniti si copre la scelta di questa operazione, sì, che sì, ci sta portando ad un livello di bassezza etica e di rischiosità strategica veramente alto. Un altro punto rispetto a questi centri di detenzione e in qualche modo smistamento, da dove arrivano i flussi? Ma sai, questa è l'altra cosa assurda, cioè i flussi sono più o meno gli stessi da una decina d'anni, cioè c'è una grossa parte di persone che arrivano dall'Africa centro-occidentale, cioè tra Nigeria, Burkina, Senegal, Gambia, che viaggiano attraverso il Niger e che attraversano il deserto e arrivano da sud, più un'altra fetta che è quella che arriva dal Corno d'Africa, da Eritrea, Somalia, Sudan, Etiopia, che viaggiano invece attraverso appunto dal fine orientale, quindi entrano attraverso Kufra, attraverso il Sudan. E queste più o meno sono le rotte, il grosso delle rotte da almeno 10-15 anni, quindi saremmo, se davvero ci occupassimo dei diritti delle persone, saremmo anche in grado tranquillamente di costruire un punto di incontro, un dialogo con i flussi in partenza, distinguendo quelli che hanno la necessità alla fuga e quindi devono essere aiutati nel fuggire, ma che sono una minoranza, e chi invece ha un bisogno di migrazione economica a cui dare, aprire dei canali regolari di questa migrazione economica, che sarebbe ampiamente sostenibile se incontrata nel punto di partenza e non nel punto di transito, di scontro, come continuiamo a fare. E tutto ciò aprirebbe un vero cambiamento dell'ordine delle cose. Invece continuare a occuparsi del braccio di mare a sud di Lampedusa e dell'attivazione della guardia costiera appena dall'altra parte dei centri di detenzione non risolve nulla, è l'ennesimo tappo disumano messo senza nessun tipo di strategia capace di costruire davvero un futuro di dialogo con questa situazione. Ed è l'assenza di questa strategia, quella è la stessa che poi fa sì che cresca la tensione nel paese, quella che il ministro dice di voler abbassare, ma continuerà a crescere nel momento in cui noi non facciamo altro che creare pressione mettendo i tappi, perché sono le pressioni che poi creano le tensioni, no? Sì. E questo farà crescere ovviamente i populismi e tutto il resto che cercano disperatamente di inseguire con scelte disumane contro cui non vinceranno mai andando ancora più a destra di loro. Andrea, complimenti anche a partire dal cast. Grazie, sì, beh, è stato fondamentale il ruolo di Corrado affidato a Paolo Pierobon, è stata una scommessa sì. Molto importante, siamo felicissimi. Paolo è un attore straordinario che non aveva mai avuto un ruolo da protagonista, che ha dimostrato la sua grandezza, sì. Anche a viso, ma insomma anche tutte le critiche lo confermano. E poi ci sono Beppe Battistone, Valentina Canelutti e soprattutto ci sono 300 cosiddette comparse, no? Sono 300 sì. Donne e uomini africani che hanno messo in scena ciò che hanno vissuto, ci hanno aiutato a ricostruire i centri di detenzione, a ricostruire le situazioni che io non ho mai vissuto fisicamente, che avevo studiato, ricercato, ma è il loro vissuto diretto che è quello che permette a questo film di essere un film che sta a cavallo tra messa in scena, cinema narrativo e documentario in realtà. Un abbraccio e a risentirci presto, Andrea. Ciao Federico, grazie. Ciao. A voi.